Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fugico, siamo tornati in Udi 451, in questo caso 451 intersezione, sempre in onda sulle frequenze di Radio Città Fugico. Ogni giovedì notte dalla mezzanotte circa fino all'una e mezza circa, ma c'è anche lo spazio gemello, il compagno gemello 451 frammenti sonori, che mercoledì, cioè ieri scorso, non è andato in onda, non andrà in onda neanche mercoledì prossimo, rientrerà praticamente a metà giugno, condotto sempre dal amico e compagno il buon Max Macchia, che saluto dalle frequenze della radio. Ricordo sempre, per coloro che siano interessati ad avere visione, diciamo, dei materiali o ascoltare o vedere qualche chicca che inseriamo all'interno del nostro blog No Blog, se volete avere tutte le informazioni sui due programmi, sulle vecchie puntate, sui materiali inseriti e appunto qualche particolarità, novità che inseriamo nel nostro No Blog, andate su 451frammentisonori.noblogs.org e lì troverete il nostro bel sito che si appunto si biforca in due trasmissioni che vi ho elencato in precedenza. Dopo le classiche informazioni di rito, entriamo subito, anche in maniera un po' sorprendente, perché siamo proprio a cavallo del 2 giugno, in realtà oggi festa della Repubblica, con un sacco ovviamente di iniziative formali, burocratiche, che tendono a esaltare ovviamente tutte le nostre care istituzioni finte democratiche. 70 anni comunque dal 2 giugno del 1946, dove si votava il referendum monarchia repubblica. Certamente 70 anni fa c'era un clima differente, molte cose sono cambiate, ma chiaramente un ambito, quello a cui noi facciamo riferimento anche dal punto di vista politico, storico e in termini di memoria, è quello uscito dalla resistenza, soprattutto quelli che non hanno piegato il capo a inciuci e a amnistie successive prodotte soprattutto dai vertici dei partiti della sinistra della resistenza, ma molte compagni che invece volevano continuare a portare avanti il discorso rivoluzionario, che invece è stato interrotto, il filo rosso insomma in parte spezzato. Questa memoria storica oltretutto è stata anche rivangata, seppur con situazioni differenti, ambiti storici differenti, anche protagonisti chiaramente differenti, con la calata nel giro di 10 giorni per ben 2 volte del caro leghista e fascista ormai Matteo Salvini, con la sua Lega Nord, che già 10 giorni fa era arrivato a Bologna bloccando tutto il centro con una marea di polizie e carabinieri a proteggerlo, e oltretutto oggi, dopo che la questura aveva oltretutto negato il permesso a Salvini per motivi di ordine pubblico a presentarsi in Piazza Vervi a fare il suo comizio, è comunque sceso ed è arrivato in Piazza Maggiore. Ci sono stati scontri sia in via Zamboni che in Piazza Maggiore, c'è stata una resistenza da parte del movimento antagonista con tutte le sue aree e le sue anime, che ha oltretutto portato avanti legittimamente e giustamente un presidio permanente già dal 1 giugno, anche in maniera abbastanza creativa, inserendo praticamente dei govoni di fieno, delle balle di fieno a protezione dell'area di Piazza Verdi, che ha ovviamente un valore simbolico, politico, storico, legato alla memoria del movimento antagonista in primo luogo e del movimento antifascista, antirazzista, e soprattutto legato alla memoria della resistenza. E Salvini, con tutti i suoi proclami e anche le sue belle alleanze con gruppi fascisti di estrema destra, vedi Casa Pound in precedenza, adesso ovviamente si deve rifare un po' la faccia, dunque si è dovuto pulire e alleare con forze, diciamo, più moderate tra virgolette, più accettate dal sistema istituzionale, ma in realtà appunto i temi portati avanti dalla Lega e soprattutto dal caro Salvini sono ovviamente provocatori, e il fatto di dire che sarebbe venuto in Piazza Verdi è stata una chiara provocazione proprio di classico stampo fascista, ed è giusto ricordarlo perché oggi c'è stata una forte resistenza, ne hanno parlato anche i media mainstream nazionali e anche vari siti sul web, e comunque è stata una risposta politica rispetto a quello che vuole far passare. È chiaro che non basta questo, perché l'humus purtroppo salviniano, leghista e fascista sta sempre più radicandosi anche nelle masse popolari, nelle situazioni disagiate, ovviamente certi proclami e certe parole d'ordine che porta avanti Matteo Salvini e la Lega, purtroppo non dobbiamo dimenticarlo, si stanno radicando appunto e stanno attaccando rispetto anche a strati sociali che dovrebbero essere un punto di riferimento, classi sociali disagiate, disoccupati, precari, situazioni ovviamente molto molto degradate, che si stanno appoggiando ovviamente alla Lega, perché ovviamente punta al nemico facile, al nemico vicino, al finto nemico, al falso nemico, cioè l'immigrato di turno, il rom, il comunista rivoluzionario, il gay, la lesbica, il trans, insomma tutto quello che fa parte della storia purtroppo dei movimenti fascisti e nazisti del nostro Novecento passato e dell'attualità, che sta attraversando anche l'Europa e non solo, come movimenti xenofobi e paranazisti. Ecco, questo è un incipit che dovevo fare, perché ovviamente come compagno e come comunque anche attivista politico era giusto ricordare anche questa giornata, che è stata comunque una giornata di resistenza e anche di lotta rispetto a un personaggio che continuerà comunque a ronzare sicuramente intorno a Bologna, perché si sta, diciamo, fissando molto su questa realtà per il valore politico e simbolico che ha la zona universitaria Piazza Verdi e tutta la storia della Bologna antagonista. Adesso andiamo ovviamente dentro invece la materia sonora, che può anche agganciarsi per certi versi alla tematica politica. Stasera affrontiamo un tema che mi intrigava molto quando mi sono imbattuto in musiche del periodo del barocco e del XVII secolo, dove appunto imperversava e cresceva anche il canto gregoriano. Mi sono imbattuto in questo e sono andato a trovarmi questa definizione, la monodia dal greco, che significa appunto, è una composizione praticamente per voce solista avente una sola linea melodica, e questo è stato, diciamo, il fulcro soprattutto del canto monodico nel canto gregoriano, ma anche appunto in molta musica del XVII secolo e del periodo del barocco. Poi successivamente diciamo è stata diversificata questa concezione e la monodia indicò anche composizioni in cui la linea melodica solista era anche ovviamente accompagnata da uno o più strumenti, ma chiaramente la differenza fondamentale è dalla polifonia, che è l'elemento che più attraversa soprattutto il Novecento, l'elettronica, tutto quello che si è sviluppato soprattutto in questi ultimi 30-40 anni, cioè la musica con più voci nel senso non soltanto legate a voci ovviamente canore, legate alla voce proprio umana, ma anche voci in termini di strumenti, di linee sonore. La differenza appunto che ci sono più linee melodiche e ritmiche che suonano e cantano simultaneamente. Questa è la diversificazione. Sulla monodia invece si mantiene una linea melodica base su cui intorno si possono anche essere altri strumenti che l'abbelliscono, creano un mondo sonoro ma mantengono questa linea melodica. Su questo ho cercato di trasporla ovviamente a mia maniera, su una mia declinazione, all'interno delle musiche sperimentali tra gli anni 70 fino ai giorni nostri. Partiremo proprio con un'idea di canto monodico e dunque con una concezione legata alla monodia, con un grande musicista, un grande sperimentatore del Novecento, diciamo un mostro sacro della musica sperimentale minimalista, cioè il grande John Cage, in questo lavoro che lui stesso ha realizzato nel 1978, Voices and Instruments, insieme a Ian Steele, dove appunto c'è un momento soprattutto in particolare dove una voce solista porta avanti una sua linea, intorno appunto ci sono altri strumenti, ma c'è l'idea appunto monodica presente nel lavoro di John Cage, che spesso ad esempio anche nelle sue elaborazioni pianistiche minimaliste utilizzava una linea che poi era melodica anche molto minimale, che veniva ripetuta costantemente. Anche questa è un'altra idea monodica ovviamente all'interno della concezione musicale che stasera cerchiamo di narrare attraverso un percorso sonoro. Partiamo dunque subito e diamo un incipit, un inizio, e così possiamo anche dare un'idea del concetto di monodia all'interno del lavoro tra John Cage e Ian Steele, da Voices and Instruments 1978. Come dico sempre, buon ascolto. Daughters of Ifbot, offspring of hope, fear, sons of unless and children of almost, never shall guess the dimension of him whose each foot likes the hair of this earth, whose both eyes love this now of the sky, endlings of isn't shall never begin to begin to imagine how, wellings, wellings. Daughters of Ifbot, offspring of hope, fear, sons of unless and children of almost, children of almost. Him whose each foot likes the hair of this earth, likes the hair of this earth. Him whose both eyes love this now of the sky, each foot likes the hair of this earth, this now of the sky. Him whose each foot likes the hair of this earth, each foot likes the hair of this earth. Him whose each foot likes the hair of this earth, each foot likes the hair of this earth. Oh. rainbow and a moon's whisper in sunset, thrushes toward dusk, or tree-filled rock, why colored worlds of because do not stand against yes, which is built by forever and sun smell. E siamo ritornati in diretta dopo questo splendido canto monodico da questo album splendido del 1978, Voices and Instruments, dei John Cage e Ian Steele. Un altro pezzo di storia importante per raccontare in questo modo una forma monodica all'interno ovviamente della musica sperimentale. E chi può essere meglio di John Cage per aprire questa finestra dentro la musica sperimentale d'avanguardia e ricerca degli anni 70. Rimanendo negli anni 70, il prossimo autore che andremo a ascoltare in un'altra sfaccettatura della monodia, in una forma piuttosto particolare, attraverso una sorta di incaglio melodico ripetuto attraverso delle forme tra xilofono e quasi carillon, utilizzando dei suoni assolutamente industrial, tipici di quel periodo. Parliamo del 1977, un anno prima dell'album che abbiamo appena ascoltato, ma chiaramente un universo sonoro differente, perché l'autore che andiamo a presentare adesso, dall'album Grace Cal, che è stato prodotto dalla stessa etichetta che lo stesso musicista ha creato, la Piano Label, appunto, e parliamo di David Cunningham, perché sennò vi lascio ovviamente lì a chiedervi chi sarà mai questo musicista e sperimentatore. David Cunningham, che ormai ha attraversato dal 1977 fino ad oggi moltissime produzioni, moltissime collaborazioni e soprattutto moltissimi universi sperimentali sonori, che ha attraversato questo musicista, attraversando in parte il pop, la musica sperimentale in toto, il minimalismo, collaborazioni con musicisti tra cui lo stesso John Cage, con cui ha portato avanti dei lavori insieme prima della morte dello stesso Cage, avvenuta nel 92, con Katie Ether, Michael Nyman, Panasonic, nell'ambito dunque della musica tecno sperimentale e minimal degli anni 90 e gli anni 0, ma per attraversare anche musicisti più multimediali come Scanner, musicista insomma molto aperto alle sperimentazioni. Il primo album però risentiva molto di un suono cupo, scuro, molto legato all'industrial che in quel periodo imperversava. Musicista nato in Irlanda e poi trasferitosi a Londra nel periodo più ricco in termini di produzioni musicali. Ci andiamo ad ascoltare proprio da questo album il primo, d'esordio di Cunningham. Le registrazioni in realtà sono del 76, la produzione dell'album è del 1977, Grace Cal, e dunque ascoltiamoci un altro modo di concepire la monodia da parte di David Cunningham, da Grace Cal 1977. Buon ascolto. Thank you. Thank you. E abbiamo mischiato e mixato nella stessa maniera due lavori molto distanti, ovviamente in termini temporali, ma accomunati chiaramente dall'elemento sperimentatore e soprattutto dall'elemento monodico, seppur con delle accezioni ovviamente compositive, sonore, concettuali differenti. Dunque siamo passati dal 1977 con il lavoro sperimentale e con forti venature, collegamenti industrial di Grayscale del 1977 di David Cunningham, invece con un autore che è cresciuto e nato alla fine degli anni 90 e soprattutto ha avuto la sua massima, diciamo, espansione e momento di creatività negli anni zero, William Basinski, un musicista che ha attraversato più volte 451, essendo sia il sottoscritto che il buon Max Macchia molto molto appassionati e amanti di quest'autore. William Basinski, da questo album che è del 2003, Melancolia, dove appunto l'aspetto monodico è rappresentato da questa traccia campionata da parte dello stesso autore di piano, che viene ridotta ai minimi termini e viene ripetuta costantemente in una sorta di loop, modificando fondamentalmente soprattutto il terreno sonoro sotto i piedi di questa linea monodica, pianistica, e anche con delle modificazioni effettistiche e sonore sullo stesso suono del piano e dell'altro tappeto sonoro ambientale che accompagna la composizione. La caratteristica che poi ha attraversato e accompagnato le composizioni di questi anni. Il lavoro principale di Basinski è quella proprio di recuperare materiali e dischi e tape, dunque nastri del passato, per tagliare, cucire, incollare delle parti e metterle in loop in una funzione appunto post quasi minimalista, creando appunto questi effetti ridondanti, ciclici e ipnotici nei lavori dello stesso Basinski. Abbiamo ascoltato dunque questo album del 2003 e ora ci spostiamo, dunque, facendo ascoltare un aspetto monodico invece ovviamente legato all'elettronica degli anni zero, un altro lavoro esattamente di un anno dopo, del 2004, di una formazione non particolarmente conosciuta nel territorio anche degli appassionati di musica sperimentale d'avanguardia, gli SWOD, musicisti, progetto musicale costituito da Kung Flu, Oliver Derrell e Stefan Warman, musicisti in parte tedeschi e olandesi, che hanno costruito questo praticamente trittico di album che è andato dal 2004 al 2011, tutti e tre collegati a un progetto uscito per la City Central Offices, e abbiamo proprio preso da questa trilogia il primo album, Gehen, del 2004, per ascoltare un altro aspetto ovviamente scusate, della linea melodica monodica all'interno appunto di composizioni minimali ma anche ambientali, più fortemente ambientali anche rispetto al lavoro precedente che abbiamo ascoltato di William Basinski. Ce l'andiamo a ascoltare, in questo caso due tracce da Gehen del 2004, per immergersi in un'altra dimensione monodica, all'interno appunto degli anni zero. Buon ascolto con gli SWOD. E siamo ritornati in diretta dopo aver ascoltato queste due tracce monodiche, pianistiche in questo caso, di Svod. Ricordiamo ancora l'album Gehen, uscito nel 2004, un altro modo ovviamente di sviluppare una linea melodica, anche seppur lunga e variegata, ripetuta poi in entrambi i brani con due linee melodiche differenti a livello pianistico, inserito ovviamente su un terreno, un territorio sonoro dove nel primo caso si alternano basso, addirittura una batteria quasi a rimandi jazzistici, e mentre nella seconda parte il piano viene accompagnato da rumori di fondo, quasi da field recordings, da microfonazione, e anche da suoni, da effetti che si intersecano sulla linea melodica. Uno degli tanti aspetti anche previsti già all'epoca dei secoli precedenti, anche come variazione dalla prima idea di monodia, legata fondamentalmente invece a una voce umana solista, poi sviluppatasi anche su un piano più squisitamente strumentale. E ora ci avviamo verso la fine della puntata. Stasera faremo una puntata un po' ridotta che chiuderà entro l'ora, entro l'una, e per chiudere il nostro percorso dentro la monodia, ovviamente declinata anche negli ultimi anni, dunque nell'ultimo decennio, andiamo a trovare un progetto che in realtà non è dell'ultimo decennio ma del 1998, dunque ormai sono passati quasi 20 anni dall'epoca, ma comunque un'altra idea, ovviamente un'altra ricerca. Abbiamo attraversato gli anni 70, gli anni 0 e gli anni 90. Adesso con questo progetto andiamo a trovare un artista sperimentale che si muove ormai già da anni sul territorio della sperimentazione sonora, soprattutto sul suono, sulla ricerca e sull'elaborazione sonica, e cioè Ellen Fulham, che oltretutto è stata presente ultimamente anche in un festival qua a Bologna, dunque una performance assolutamente ipnotica e particolare quella che ha sviluppato anche qua a Bologna, ma è tipico delle sperimentazioni dell'Ellen Fulham, che è un'autrice che ormai già da anni si muove nel territorio della sperimentazione, musicista che porta avanti soprattutto la ricerca su una sorta di sperimentazione, di creazione anche di musiche e di strumentazioni nuove legate ad esempio a delle corde che la stessa Fulham utilizza per elaborare e creare una sorta di arpa con queste corde elettrificate che lei stessa poi manipola a livello digitale e analogico, creando un suono assolutamente unico, in questo senso una creazione proprio anche dello strumento stesso per creare il suono, ma l'attenzione principale appunto è legata all'aspetto sonico. In questo caso andiamo a presentare un album uscito nel 98, come vi dicevo, Change of Direction, che rappresenta appunto questo strumento creato dalla stessa Fulham, e una sorta di brano che si espande su una sorta di suono ipnotico che può sembrare quasi statico, ma in realtà crea delle piccole e delle minime linee melodiche che però appunto si mischiano dentro un flusso sonoro assolutamente allucinogeno e ipnotico che raccoglie una sorta di microcosmo sonoro assolutamente unico. Ce l'andiamo a sentire per chiudere la puntata di stasera di Monodie, e ovviamente vi ricordo sempre di ritornare sulle nostre frequenze di 451 intersezioni. Della prossima settimana saremo sempre presenti il giovedì dalla mezzanotte all'una, una e mezza circa. Vi ricordo sempre anche che la trasmissione 451 frammenti sonori di mercoledì prossimo non andrà in onda, ritornerà la settimana seguente con la conduzione di Max Macchia. Io vi auguro ovviamente una buona notte, un saluto, e un saluto da 451 intersezioni e dal sottoscritto Lisio Scarpa per una buona nottata, e vi lascio con lo splendido lavoro di Ellen Fulham dall'album Change of Direction 1998. Buonanotte.